buon ascolto e benvenuti a tutte e a tutte. Questa è Radio Onda Rossa, la voce della comunicazione e della cultura antagonista, una voce libera dal 1977 che vive senza padroni e senza pubblicità e che potete ascoltare sugli 87.9 della modulazione di frequenza e in streaming sul sito www.ondarossa.info. E allora eccoci qua come ogni giovedì da un po' di tempo a questa parte. Tracce di Cinema saluta tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, abbraccia con affetto tutti coloro e tutte coloro sono private della loro libertà personale. Quando parliamo di privazione di libertà non parliamo spesso di carcere, ma insomma questa è la privazione della libertà, riguarda anche l'oppressione, la schiavitù, la dipendenza, la paralisi fisica o mentale, la malattia. Sono anche questi contesti in cui la libertà personale viene meno e la vita non sempre ha bisogno di sbarre per essere vissuta come una prigionia. E quindi di cuore, da questa voce, va a tutti coloro che si sentono o sono imprigionati la nostra solidarietà. E per fortuna oggi pensiamo alla vita e ce la ridiamo alla grande. Infatti due film di cui parleremo sono delle commedie che, se e quando sono buone, fanno ridere o sorridere, ma anche riflettere. Con i film di oggi ci immergiamo nella realtà della vita che, attraverso degli espedienti narrativi fiabeschi, quindi di finzione, ci fanno vedere noi stessi fragili, insicuri, maldestri, che navighiamo a vista in mezzo ai danni, ai dolori e alle difficoltà che a volte nella vita sembrano essere l'unica certezza. Ma perché c'è un ma sempre, bisogna dire che si possono citare due titoli: La felicità è un sistema complesso, e per questo non mi viene nient'altro in mente che fare un altro abbinamento con l'altro titolo di oggi, che è Non pensarci, perché la vita con i suoi diffusi malesseri va affrontata a volte anche così, senza pensarci troppo. L'autore di cui parliamo oggi è Gianni Zanasi. Mamma mia quanto sto a chiacchierare, non ci posso credere, l'avrete capito, spero che avrete visto i film perché sono entrambi molto belli e sono anche veramente molto belle le tracce che compongono le colonne sonore. Buon ascolto. Enjoy my life. E stiamo ascoltando la colonna sonora del film Non pensarci, come vi ha detto Ottavia. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato è di un gruppo di Varese in attività dal 2001, ovvero il gruppo si chiama Mercy Miss Monroe, e con il brano D. Sì. E di loro si può dire che hanno un'adorazione smisurata verso Marilyn, e resa evidente anche dal brano Gentlemen Prefer Blondes. Fanno musica definita indie, ma anche punk romantico. Riguardo alla colonna sonora, si può dire che la musica è proprio al centro del film, e crea un contrasto netto con i personaggi. Ad esempio, vengono usate arie d'opera in contrasto con il mestiere di rocker di Stefano, e si può dire di questa colonna sonora che non ha mai cali di tono. Una curiosità che Valerio Mastandrea a un certo punto esegue nel film un preludio di Chopin, ovvero l'opera 28 numero 7, che è particolare. E chissà se la esegue veramente lui? Ma è venuto a trovarci qualcuno, sbaglio? Ma sì, qua abbiamo un ospite d'eccezione. La sentiremo parlare tra poco. Una bellissima ragazza. Tra poco la sentiremo parlare. Intanto ci sentiamo la musica. Questi erano i Clap Your Hands and Say Yeah, un nome curioso per una band, con il brano Let the Cool Gods Rust Away. Clap Your Hands Say Yes, una band indie rock di Brooklyn che si incontrano al liceo e nel 2005 pubblicano il loro primo album e grazie a delle, insomma, dei premi riescono ad avere sempre più fama. Addirittura pare che David Bowie e David Byrne sono stati visti ai loro concerti. E qua vicino a me c'è un'attrice famosa che ha vinto anche un premio. Una neopremiata. Una neopremiata, giustamente, perché ha fatto un film veramente molto bello che non ne parliamo oggi, anche se poi la colonna sonora del suo film, cioè Eleonora Danco, ecco, ve la ciao, presento. Ciao. Ma io sono andata a bere un caffè perché abito qui dietro, volevo fare un dispetto a Federico però, e invece mi hanno accolta, grazie. E invece è stato un gran piacere. Sì. Aggiungiamo anche che ha dei capelli lisci per l'occasione che mi piacciono. Perfetti proprio per la cerimonia. Sì, sono orribili. Manca il vestito e il tacco alto e poi sei perfetta, te rispediamo a Bruxelles. Se no ti ho un colore, non ero uno grigio. No, ma invece stavo dicendo che il film di Eleonora, Incapace, giusto? È incapace. Ha una bellissima colonna sonora di cui ne abbiamo anche parlato una volta, ti ricordi Eleonora? Sì. Perché ne avevamo detto di farla anche in trasmissione, quindi ci ripromettiamo di farla visto che tu sei qui, prendi questo impegno. Sì, saluto Marcus Acker dei No Twist, che è il compositore della colonna sonora. Adesso ti facciamo fare fra poco un duetto con Valerio Mastandrea che te lo ricorderai. No, povero Valerio, dai, non lo voglio. Stiamo ascoltando la colonna sonora di Non Pensarci, il brano che abbiamo appena ascoltato è dei francesi Le Feuve, il brano si chiama February Lullaby e sono considerati dei fuoriclasse, hanno avuto un esordio difficile ma poi un grande successo e loro incrociano pop, tonalità rock and roll cupe ma anche decadenti e si dice di questo pezzo abbiamo ascoltato che è un piccolo capolavoro. È una curiosità, hanno deciso di chiamarsi Feuve non ispirati dal movimento artistico dell'inizio del Novecento ma dal film Les Nuits Fauves, uscito in Italia come Notti Selvagge nel 92, film cult di Cyril Collard, cineasta, scrittore e musicista. Le riviste francesi si sono scatenati sul fenomeno di questo gruppo, addirittura Libération ha dedicato 8 pagine. E inoltre loro sono dei ragazzi proprio che insomma facevano altro nella vita, adesso si sono dedicati alla musica e dicono di loro stessi: siamo dei lati B, gente media, trasparente, proprio perché hanno sentito il dovere di stare sugli stessi binari della musica e della vita e insomma suonare, ma insomma queste due cose non devono essere per forza unite, si possono separare e questa è una cosa bella secondo me. Oh, questo si è capito. Si è capito, figura di Ottavia. Questo ci introduce al nostro uno dei due ospiti, anzi dei tre ospiti di oggi, perché una l'abbiamo qui in studio. Valerio Mastandrea invece è al telefono. Ci sei, Valerio? Sì. Ciao, oh, buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Come stai? Bene, voi? Bene, bene, bene. Allora, intanto Italia, mi saluti per favore. Ciao, ciao, ciao Valerio, come stai? Che bello sentirti. Oddio, oggi mi stai facendo perdere il tram. Sì, il tram è, il tram è anni il tram 70. Hai grande fiducia nel trasporto pubblico. Io sono anni 70, io prendo ancora il tram. Lo rincorro sempre. Ma nella vita si rincorre sempre un tram, no? Però tu no, tu hai smesso di rincorrerlo, tu ormai sei diventato famoso. No, sei ormai Los Angelino, sei pronto ai premi, alle ribalte. Comunque uno può fare un viaggio transoceanico che subito la gente pensa che è cambiato. Io in realtà non sono cambiato, semplicemente sono lo stesso anche a bordo di un aereo, cioè mi cago sotto. Ma poi tu ci vai in nave? Mai. Ci vai in nave? No, io ci devo andare in aereo per forza, ma insomma non è che andare a Los Angeles se cambi le persone, anzi, forse le peggiora. Questo sì, questo, vabbè, ma questo vabbè, speriamo di no, dai, poi. Ma con questo a te non può succedere. No, di peggiorare dici sì. Esatto. Anzi, prova a me succede. No, io sono proprio contenta di sentirti. È un'ovazione ormai a Radio Onda Rossa parlare di te, perché pure la scorsa settimana a Visionari parlavamo del film di Gianni Zanasi, del vostro ultimo film, oggi di due film in cui ci sei sempre tu. Eh sì, l'altra volta sempre a parlare di te. L'altra volta dicevo a Gianni di questo rapporto che continua tra voi due a distanza anche di anni, insomma, ne parla. Sì, ma è come un rapporto tra un jeep e un imputato, cioè quello con la giustizia lenta, cioè è un rapporto da tribunale, ecco, quella roba. Senti, ti diamo intanto una notizia che ci è arrivata fresca, perché Eleonora Danco, che è qui in studio perché abita qui vicino, era scesa a prendere. Me la salutate tanto. Ciao Eleonora. Era qui, ha detto mi ha da prendere un caffè, a salutare Federico, l'abbia fatta salire e ci ha detto che ha un festival a Bruxelles, il suo Incapace ha vinto il premio, quindi è stato premiato, ha vinto il festival. Sono molto contento, nonostante non l'abbia visto, sono molto contento. Mazzia. Non l'ho ancora visto, lo vedrò. Vabbè, dai, anch'io non ho visto il tuo, però ti vedo tutti i giorni perché qui al Tibur c'è la locandina del tuo film e quindi quando passo quindi vedo il tuo faccione. Dico ogni sera, stasera ci vado, guarda Valerio. Ma io pure sono sei mesi che dico che poi ci ripensa tuo, però. Qualcosa vorrà dire, fatela la domanda, Valè. No, non ci ho mai pensato, veramente. Erano solo tre sere perché che non senti, potevo. Ma è vero che avete fatto un concerto, te Zanasi? No, ho letto da qualche lui, parte che avete fatto sottratto. Un concerto quando avete fatto Non Pensarci. Per la presentazione. No, Venezia. Ma mi racconti sta cosa? No, ma io mi sono sottratto. Perché tu sei musicista. Pochi perché la musica suonata da Zanasi è come i film di Zanasi, cioè devi essere predisposto a cogliere del bello e della poesia in mezzo a tantissimo caos. Questo è non è vero, è bravissimo, serata... è bravissimo, insieme fate sì, no, ma lo dico una coppia come... formidabile. No, ma lo dico con stima, con figura di quello, cioè, è uno dei casi umani a cui sono affezionato nella mia vita e lo sarò per tutta la vita, purtroppo per me. Però no, avevano cominciato sto concerto, loro hanno un gruppo, non so come si sia, ma ci avete già parlato con lui? No, vi ha già raccontato dopo. La sua? No. Parliamo prima con te. No. Che c'hai di fretta, certo, c'hai impegni, sei impegnato, no, sei messo pressa. Senti, qui Davide. Vabbè, comunque no, mi sono sottratto. Io suonavo la batteria da ragazzino, quindi sarei potuto salire su quel palco, ma avevano preso una piega wave anni 80 col progressive dei taxi, una cosa terrificante, mi sono nascosto e non mi hanno mai trovato. Senti Valerio, ma qui David mi segnalava il fatto che stavamo tanto sentendo le musiche di Non Pensarci e che tu hai eseguito un preludio di Chopin nel film, eh? Sì, li studiai un po', pianoforte, proprio a San Lorenzo, tra l'altro saluto Alessandra, di cui non ricordo il cognome, che era la maestra di piano, ma io l'ho suonato fino a un certo punto, sono partito in quella scena e poi quando diventa... È subentrato uno dei pezzi più brevi e più emozionanti che abbia mai sentito, non lo conoscevo, però ancora oggi se lo sento mi prende un colpo, anche perché Non Pensarci per me è stato un film molto... che ha segnato insomma un bel cambiamento nella mia vita, quindi era, ci sono molto legato. Oh, non è neanche un caso che abbiamo scelto Gianni con i suoi due film, perché la musica nei suoi film è come un ulteriore personaggio, ha un ruolo predominante. No, è molto più importante, è più importante degli attori la musica, certo. Sì. No, è vero, verissimo. Sì, è così. Senti, niente, sempre addosso voi attori, che noia. Dai, comincia a offendere voi attori a essere categorici. Mamma mia, che noia che siete. Senti Valerio, rispetto alle musiche, non pensarci a quest'ultimo film, a livello musicale, che ci puoi dire di queste due opere, insomma, in cui comunque hai un ruolo importante? No, ma posso dire che l'uso della musica, almeno da spettatore, te lo dico, per me è sempre... mi incuriosisce tantissimo, e non sto lì a farmi domande, qui ci vuole la musica, qui non ci voleva, eccetera eccetera. Insomma, quando riesco ad essere ancora spettatore, io esco da un film con una serie di sensazioni, tra cui la musica. Se non penso che ho ascoltato bella musica, ma me ne rendo conto inconsciamente, vuol dire che era messa bene per me. Ho visto anche film senza musica e quel silenzio lì, l'assenza totale di note eccetera, l'ha sonorizzato comunque, quindi ha un significato identico. E mi ricordo il primo film di cui mi accorsi non c'era musica, non ci fosse musica, era il primo film dei Dardenne, mi sembra che era il primo, La Promessa. Sì. Tra l'altro con un argomento e un tema trattato molto molto forte, molto purtroppo ancora attuale, perché parlava di una morte sul lavoro in un cantiere, una morte di un immigrato non regolare, quindi di un insabbiamento, di una cosa così. Lì non c'era mai musica, neanche sul finale. Sì. Non c'era colonna sonora, e però uscendo da lì dici: ma cazzo, che bella colonna sonora, non c'era. Perché certe però... volte le immagini evocano comunque delle sonorità. Sì, no, certo, ci fai caso, capito? Invece il film di Gianni, per esempio, Gianni è uno che mi impiega 7 anni per fare dei film, e vuoi che non pensi a dei brani musicali degni di nota in questi 7 anni? No, a proposito di degni... ogni film che fa finiscono dei generi e ne nascono altri. In 7 anni sono quasi una generazione musicale. È vero, erano gli anni però... 90, figurati, insomma, ne sono passati di anni. Sì. No, stavo pensando, per esempio, vedendo quest'ultimo film, in apertura c'è Plastic Bertrand, C'est plan pour moi, che io, cioè, è del 77, io avevo 9 anni, quindi mi ha subito riportato a un mondo, perché poi quel pop francese che andava forte tra la fine dei 70 e l'inizio degli 80, e poi è andato completamente dimenticato, però insomma, ecco, mi ha fatto tornare in mente un mondo. Ho detto: ah, vedi che hai capito che intellettuale con cui faccio la trasmissione io. Questo a 9 anni sentiva Plastic Bertrand, roba forte. Dal fatto che sentiva Bertrand a 9 anni capisco moltissimo. È vero. Io ci sarò cascato per forza in discoteca da qualche parte del pomeriggio, ma lui se lo sentiva, aveva il disco, quindi... No, il disco, ecco, non ce l'avevo, no? Non mi mettete in mezzo, non c'è col disco, però quella canzone me la ricordo benissimo. Va bene. Dai, Valerio, ti lasciamo ai tuoi impegni. Che cosa stai facendo? Stavi dicendo le tue stronzate, vero? Cosa? Stavi dicendo: ti lasciamo le tue stronzate, perché tu non credi che io abbia delle cose da fare realmente. Ma insomma, quelle cose da fare che hanno gli attori, ecco. No? Che non sono mai così. No? Gassman diceva sempre meglio che lavorà, quando parlava del mestiere dell'attore. Sì, lo diceva Mastroianni, mi sa. No, a me mi pare proprio Gassman. No. Allora, c'è Leonora pure. Conferma che... anche Leonora, mi sono sbagliata. Cioè, che lo diceva Gassman? Ma, è che lo diceva... No, Mastroianni. Ma secondo me lo dice per piaggeria nei tuoi confronti e non nei miei. Credo che ne abbia bisogno. Adesso vado a controllare su Wikipedia. Senti, va bene, sì. Ci dici che cosa stai facendo? Cosa vai a fare adesso? Quali sono i tuoi progetti? Adesso... So che stai facendo un film, l'hai già iniziato a girare? No, io adesso sto seguendo ancora il film di Claudio in giro per il pianeta. È certo che è bellissimo, che è bellissimo, è stupendo. Grazie, sì. Ci è piaciuto un sacco a noi. Aspettiamo che escano queste cinquine dei Golden Globe. i Golden Globe il 14 dicembre, e poi ci sarà la prima selezione dagli 85 film in lingua straniera a 9. E noi facciamo il tifo, tra l'altro sì. La colonna sonora è bellissima, quindi toccherà che torni un'altra volta, no. Mi sa. Va bene, okay. Sempre lieto. Valerio, un abbraccione. Ciao a tutti, ciao Leonora. Ciao Valerio, se ti mando il DVD te lo vedi in aereo? Sì, certo, perché c'è il DVD in aereo, come no? No, comunque in aereo non posso vedere nulla io, perché io in aereo guardo solo il monitor dove sta l'aeroplano, capito? Vabbè, allora te lo mando a casa. Grazie Valerio. Pensa che bello a vedere Incapace sopra la Groenlandia, avrebbe un grande significato. Sì, sarebbe una figata, vabbè. Valerio, un abbraccio. Grazie Valerio. A presto. Ciao. Un abbraccio, ciao. E questo era il preludio sonato di Chopin, suonato da Mastandrea. Da Valerio Mastandrea. È stato brevissimo perché ci introduce subito a un nuovo pezzo. Esatto. Stiamo sempre ascoltando la colonna sonora e Non Pensarci. Questo brano si chiama Stab City ed è del gruppo milanese Hot Gossip, composto dal trio di Giulio Calvino, Luca Fontaneto e Nicola Zenone. La loro musica viene considerata a delle attitudini dance floor, ma anche ritmi post-punk e indie rock. Una curiosità: nel 2008 interpretano loro stessi nel film Gli ultimi della classe. Oh, questo ci porta a Gianni Zanasi, che dovrebbe essere in linea. Ci sei, Gianni? Ci sono, ciao. Oh, ben ritrovato su questa frequenza. Mamma mia, che puntata oggi. Ciao Gianni. Ciao. Sono Ottavia. Cosa? Sono Ottavia. Ciao. Ok, ciao Gianni. Allora, abbiamo appena sentito Valerio Mastandrea, abbiamo qui in studio Eleonora Danco che, poverina, non si aspettava tutto questo, era scesa a prendere un caffè e c'era venuta a salutare e l'abbiamo trascinata in studio. E ora ci sei tu, Gianni, che abbiamo già sentito la settimana scorsa per l'uscita del tuo film in sala. Che Eleonora ancora non riesce ad andare a vedere, dice che è qui a un cinema qui vicino al Tibur, dice che c'è sempre la folla, la coda, quindi lei... Oh là là. Dai, ce la puoi fare, sì. In piscina, d'estate, regista. Cosa? Lo vedo qualche volta nella piscina dove vado d'estate, a nuotare. Capisci? Ma dove? A Roma, che ce vengo pure io per vedere Zanasi. Dai, me lo presenti magari? Lui. Tutti in piscina. Mi piacerebbe conoscerlo. No, vengo pure io in piscina a questo punto. No, vabbè, dai, ci troviamo tutti in piscina, va benissimo. Molto volentieri. Allora, Gianni, con Valerio ricordavo l'episodio della folgorazione iniziale con Plastic Bertrand, Sa Plan Pour Moi. Io avevo 9 anni, dicevo, poi quel pop rock che contraddistingueva quegli anni si è un po' perso per strada, però appena uno lo risente ripiomba in quel periodo della memoria. E... sì, è una Madeleine avvelenata, sì. Tra l'altro non siamo riusciti a fargli fare lo Chopin che aveva fatto in Non Pensarci a Valerio, però l'abbiamo messo subito dopo. Abbiamo iniziato con Non Pensarci, ecco, anche ripetiamo anche con te, insomma, che le musiche nei tuoi film sono uno dei personaggi protagonisti e questo è un dato che contraddistingue il tuo lavoro. Sì, viene così, insomma, non c'è proprio un piano di marketing alla base, è proprio un fatto emozionale. Me lo sento soprattutto se portate in un certo modo, mi sembra che interpretano qualcosa di intimo dentro le scene, più che essere messe in modo un po' più tradizionale a sottolineare, che invece è un modo che non mi piace tanto. Mm-hmm. Senti, per quanto riguarda gli artisti italiani, sei andato sui gusti personali? Dice delle musiche dei film? Sì. Sì e no, nel senso che poi ogni film ti porta magari anche da qualche parte che non ti aspettavi. Più che essere un momento per mettere la tua musica preferita, è chiaro che metti delle cose che ti piacciono, però è anche un po' il film che decide. Magari c'è un pezzo che ti piace tanto, ma non ci sta. Il film non lo vuole. Per cui, per esempio, Non Pensarci, il finale con Agnese Dolce Agnese di Ivan Graziani, ci è venuto in montaggio, proprio a me, alla montatrice e produttrice Rita, avevamo sentito forse una musica simile, vagamente simile, in un bar, ci è rimasta nelle orecchie, abbiamo detto, ma senti, ma assomiglia a quella di Graziani, ma se provassimo il pezzo di Ivan Graziani, e l'abbiamo messo su e esprimeva in modo meraviglioso quello che volevamo dire, per cui capito, sono anche dei percorsi un po', bisogna stare con le orecchie aperte, diciamo. Senti Ottavia, tu avevi tirato fuori un aneddoto rispetto a Venezia. Ma sì, perché io ho trovato su internet, insomma, cercando delle informazioni sul film che ho visto e che ho amato tantissimo e che ho voluto, adesso ci tengo proprio a dirlo, l'ho voluto fare io la trasmissione Tracce di Cinema su Non Pensarci, perché mi piaceva moltissimo la colonna sonora e mi è piaciuto tantissimo il film, l'ho amato tanto, mi sono divertita, mi sono emozionata, mi sono commossa, è veramente un film completo, cioè è proprio la commedia all'italiana perfetta, non so, spero che non ti offenderai se te lo dico. No. E, tanto che è talmente perfetta che ho trovato su internet che mio padre uscì dalla sala a Venezia e come è scritto su questa cosa che ho trovato su internet, era in brodo di giuggiole e ovazione per il tuo film, insomma. E chissà se vi siete conosciuti, come? Se vi siete incontrati con Mario Monicelli in questa occasione. Ah no, con Mario Monicelli sì, l'ho incontrato, e infatti la prima cosa che gli ho detto, vabbè, tanto grazie perché aveva fatto una presentazione bellissima fino all'imbarazzante, gli ho detto, guarda, glielo dico sinceramente, non è un modo di dire, cioè lei è l'unico vero regista punk del cinema italiano, e lui mi ha guardato come se lo sapesse già. Fantastico. Senti, poi ti avevo chiesto delle musiche italiane, poi quindi è frutto anche quello che capita poi nel film, è frutto, dicevi, delle vie che prende il film, ma anche delle persone che ti circondano durante la lavorazione. Beh sì, c'è sempre a me piace collaborare con un gruppo di persone. Un regista deve essere bravo anche a trovare, e fortunato, a trovare le persone giuste per il film, e poi a quel punto è chiaro, il regista decide, per carità, è importante, però è altrettanto importante per me un fenomeno di collaborazione, perché la vera star del film non è per me il regista, l'autore, ma nemmeno l'attore o attrice star. La vera star è il film, quindi è lui che, come tra un buco nero e un bambino, vuole e pretende tutto quello che gli serve, quindi siamo tutti a servizio suo. Quindi a volte escono anche delle idee che non vengono da me, e a volte non c'entrano col film o non ci stanno bene, a volte invece sono delle ottime idee, ottime tracce, per cui questo secondo me è un modo di lavorare che arricchisce il film e che è la cosa più importante. E quindi io anche in questo modo venne anche il commento un po' anomalo, l'intervento un po' anomalo di aria della Traviata nel Non pensarci, fu un'idea della montatrice. E certo che però il cast, no? Questo cast che insomma è fatto anche di attori che tu rincontri durante i tuoi lavori, no? È un cast molto affiatato, insomma, penso a Battiston, a Valerio Mastandrea, ecco, insomma, sono degli attori che tu, con i quali tu vai molto d'accordo, perché insomma avete lavorato insieme. E spesso. Dei quali, tra Battiston e Mastandrea, la musica fa parte del loro percorso non solo professionale, ma anche umano, insomma. Mm-hmm. Sì, sai, sono anche esempi più importanti di me, e anche in situazioni altamente industriali a volte vai a vedere e si creano alchimie simili, non so, penso a David O. Russell, quel regista di American Hustle, che insomma per sono già 5, 6, 7 anni che sta lavorando quasi sempre con gli stessi attori. Sì. A volte è successo anche Scorsese, è un po' è successo, voglio dire, a un grande regista che ha condizionato in positivo il miglior cinema americano e non solo, che è Truffaut. E a volte, insomma, quando trovi una combinazione proprio chimica felice, è un po' come mettere su anche un po' una band, insomma, e quindi si riesce a instaurare un modo di giocare giocare seriamente, ma non seriosamente, che diventa molto molto creativo. Siete una bella cricca, insomma, ve la divertite. Brava, esatto. Senti, una curiosità, qual è il terreno musicale che senti più tuo, se possiamo parlare di generi, anche se è difficile parlare di generi nella musica? Sì, diciamo, credo di avere una forse naturale indole un po' rockettara, però molto contaminata, per cui devo dire aperta fino allo spalanco, credo, insomma. Quindi da, appunto, anche nei film mi piace, anche in questo in particolare c'è una mescolanza veramente classica, rock. I Nouvelle Vague non si possono definire rock, anche se vengono da, fanno un remake di un pezzo dei Tuxedo Moon, elettronica, una buona, sì, elettronica, secondo me ha fatto un ottimo lavoro Niccolò Contessa dei Cani, molto raffinato secondo me. Dio, non è una parola proprio straordinaria, però potremmo dire un po' trasversale. Senti Gianni, ma è vero che l'altra scorsa puntata abbiamo parlato del film Federico, aiutami. Federico, se mi lasci di cancello. Se mi lasci di cancello di La sceneggiatura è di Charlie Kaufman, la regia è di Gondry. È Gondry, ecco, io ho un problema con la memoria. Anch'io, un disastro proprio, non mi ricordo niente. Però insomma parlavamo di questo regista e di questo film e in particolare dell'improvvisazione, no? Che lui ha usato ha lasciato fare insomma i suoi attori e ho letto che anche tu insomma lasci molto spazio agli attori per quanto riguarda l'improvvisazione nelle scene, insomma li lasci andare un po' a braccio come si sentono, è vero? Ah, un po' sì, nel senso che l'improvvisazione è una cosa molto molto figa, può fare molto bene al film, se però sta dentro a una messa a fuoco molto forte, molto precisa del personaggio. Allora se insieme abbiamo veramente messo a fuoco quello che è il cuore e lì siamo precisi nelle intenzioni, in quello che sta dentro e sotto il personaggio, allora viene naturale anche all'attore prima di tutto aggiungere, togliere, arricchire, quindi in questo senso sì, diventa veramente un gran bel modo di lavorare che sorprende già tu che lo fai e quindi ancora di più lo spettatore, e ti dà forte la sensazione che il personaggio non è più solo un personaggio, cioè qualcosa di bidimensionale in una pagina scritta, ma è proprio una persona, che come una persona vera, viva, ti può sorprendere, come succede nella vita, ti sorprende da un momento all'altro. Se però non ci fosse quella messa a fuoco lì, allora sarebbe andare un po', veramente un po'... diciamo che è un'altra certo. cosa. E qui abbiamo Eleonora che è proprio proprio l'esempio puro dell'improvvisazione. Chi meglio di lei può farti adesso una domanda? No, io non improvviso mai, guarda. Vabbè, con i personaggi di Incapace. No, volevo chiederti il tuo rapporto con la sceneggiatura, no? Sul set. Se permetti agli attori di cambiare qualcosa e comunque quanto è cambiata la sceneggiatura dei tuoi film poi rispetto a quando giri? Guarda, diciamo che è un rapporto intenso e conflittuale, non so, nel caso di questo film della Felicità del Sistema Complesso ho passato veramente molto molto tempo a scriverla e a riscriverla e a riscriverla e tanto, poi onestamente succedeva quando andavo a girare, e questo forse è stato ancora più che gli altri film, ogni giorno aprivo le pagine della scena che dovevo girare, la leggevo e dicevo non è possibile, non mi piaceva veramente, dicevo ma chi l'ha scritto, e quindi ogni volta ho dovuto fermare il set prima di girare e riscrivere completamente la scena, insomma completamente riscriverla, questo perché era la situazione, i luoghi, gli attori, era tutto molto ben rodato, molto preciso, molto più preciso delle pagine che avevo scritto, quindi le riscrivevo basandomi su quello che avevo come possibilità davanti, che era qualcosa di molto più concreto e preciso, e quindi una volta riscritta poi si va a girare con gli attori, e prima di girare io non amo fare tante prove, cioè se devo fare una prova francamente dico beh giriamo anche la prova, chi se ne frega però c'è un momento prima di girare in cui con gli attori si individua il centro, il nucleo, il cuore della scena, magari fa una battuta di troppo, magari in un momento uno dice ma qua proviamo ad aggiungere, e alla fine la componi e poi vai a girare. Che bello, che poesia, come hai raccontato poeticamente questo tuo lavoro, è bellissimo, hai sentito parlare così, è faticoso ma divertente. Di un film che viene girato, è molto poetico, molto bello, ma si sente nei tuoi film questa poesia, è molto forte, l'ironia, la comicità, insomma è un cinema popolare ma insomma anche pieno che dà molte emozioni insomma. Grazie, sì. Senti Gianni, nel salutarci noi chiediamo sempre a chi interviene nelle nostre puntate se c'è un film, un titolo o più titoli che ti hanno galvanizzato per la loro colonna sonora e che magari potresti anche suggerirci per le nostre prossime puntate. Ah, per la colonna sonora, guarda, ma sì. Potrebbero essere veramente tantissimi, adesso mi viene in mente ma mi colpì molto un film francese di qualche anno fa che si chiamava La guerra déclarée, La guerra dichiarata. La guerra dichiarata. Sì, di questa regista statunitense. Sì, sì, sì, sì. Il film era veramente molto bello. A leggere la sinossi, avevo detto, vabbè, cioè, neanche se mi danno 50 euro vado a vedere questo film, perché sembrava qualcosa di estremamente votato soltanto a una cupa tragedia. Invece sono andato a vedere il film, era una, sì, molto bello, una botta di vita, e c'era un uso delle musiche molto vario, molto libero. Mm-hmm. A volte succede, insomma, questo è, ti affascina, e insomma, noi ce l'andremo, che, ce l'andiamo a cercare e ce lo vedremo, e sì, chissà che non sarai il nostro ospite un'altra volta, magari. Tra l'altro ha tirato fuori anche il, quello di David Russell, che, o Russell, che avevamo anche pensato di trattare una delle prossime puntate, magari puntiamo anche a quello, la cui colonna sonora è tutta vintage, però molto, sì, molto bella, molto bella, sì, sì, sì, sì, sì, sì. No, molto figo. Bene, Gianni, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo. Ma grazie a voi. Un abbraccio, come sta andando tra l'altro? Guarda, il primo weekend, tu puoi immaginare l'ansia, non dormivamo, però abbiamo avuto un'ottima, ottima risposta di pubblico. Grande, cui, siamo contenti. Sì, guarda, anch'io, al di là del mio personale, proprio il fatto che in un panorama un po' raggelato, soltanto su pochi tipi di film e nient'altro, una proposta diversa possa incontrare il pubblico, secondo me è una notizia figa per tutti. Sì, ma poi non poteva succedere che questo, perché tu sei un bravo autore, un bravo regista, un bravo incantatore e narratore di storie, che insomma io l'ho detto all'inizio della trasmissione, insomma, che devono regalarci anche qualcosa che poi ci assomiglia, no? Ecco. Certo, tu ci riesci benissimo, Gianni. Guarda, quando mi sento un po' giù di morale vi chiamo. Benissimo, ne siamo qua. Un abbraccio e a presto, Gianni. Ciao, ciao, buon lavoro, ciao. Bam bam, mon sas plage, j'ai sur mon lit à bouffer, ça n'en en buvant, prends mon whisky, quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Couleur. Allez hop, un matin, une louloute. siamo passati alla colonna sonora di La felicità è un sistema complesso, come diceva il regista, decisamente trasversale. Infatti si passa da questo bellissimo brano di Plastique Bertrand, Ça plaît pour moi, ai Nouvelle Vague, come è stato detto, i Rolling Stones e altri. Ma questo, mai girato il link del video su YouTube, il video d'epoca di Plastique Bertrand? Una cosa notevole. Sì, andatelo assolutamente a vedere. Plastique Bertrand è il nome d'arte di Roger Jouet, cantante belga che è stato all'inizio della sua carriera batterista nel gruppo punk Hubble Bubble, e la canzone del Ça plaît pour moi del 77 fu un successo mondiale nonostante il testo in francese, ed è ancora oggi uno dei grandi classici punk new wave, wave pop, e in particolare gruppi come President of the United States of America, Telex, Sony Youth e la cantante Leila Kay ne hanno fatto delle cover. All'inizio degli anni 80 Bertrand si trasferisce a Milano, diventa un idolo, compone anche due singoli di grosso successo, Hula Hoop e Ping Pong, presentati a Sanremo. Ma niente a che vedere con questa, no. Dai. Ma questo è proprio un gran pezzo. E questo bel brano è del gruppo I Cani, questo è il brano Asperger. Contenuto nel film La felicità è un sistema complesso, e il gruppo I Cani è un gruppo in realtà formato da una sola persona, Niccolò Contessa, e forse romano, adesso siamo un po' indecisi su questo dato, ma dell'86, e il quale ha curato anche la colonna sonora del film La felicità è un sistema complesso. Sì, Contessa, I Cani ha mantenuto l'anonimato per diverso tempo e ha pubblicato tutti i suoi album attraverso tutte queste cose adesso che ci sono nuove su internet, tipo SoundCloud, YouTube, iTunes. Ne parlo così perché non so che cosa sia, non ne faccio uso. Sì, ho SoundCloud, ma insomma, lui ha promosso tutta la sua musica così, anonimo. Fino al 12 giugno 2011, quando durante l'esibizione con i membri degli Ancient Regime al Miami Festival si toglie questo sacchetto di carta dalla testa, è finita e respira di from the cameretta e finalmente si fa vedere. Comunque lui dice che il 22 ottobre 2013 è stato pubblicato in formato digitale e streaming, di nuovo vedi questa cosa che piace ai giovani evidentemente, e Glamour, che è il secondo album della The Band, e Contessa ha dichiarato che la decisione di fare questo nuovo disco è arrivata dopo aver ascoltato l'album Fantasma dei Baustel. Inoltre ha dichiarato a Mucchio Selvaggio, che è un noto giornale di musica, di aver saputo da prima l'intenzione di fare un tipo di musica più rivolto al noise elettronico di Tom Waits e soprattutto dei Times New Viking, per raccontarvi un po' le sonorità alle quali lui si ispira, ma che successivamente non si rivelò adatto all'approccio cantautorale dei testi, a cui si adeguano piuttosto le melodie orecchiabili tipicamente pop. Successivamente dichiara di voler fare semplicemente punk col computer, provando a far suonare i synth come chitarre, creando una struttura da canzone rock con suoni elettronici, e di ritrovare nella propria musica i The Cure, i New Order e in genere la New Wave, ma anche i Sibado, i Pavement, i Waves, i Times New Viking e anche Alberto Camerini, per esempio. Quindi insomma tante commissioni, tante sonorità diverse. Ha inoltre ammesso di aver preso spunto dal linguaggio diretto dei testi hip hop, perché tendenti a riferirsi, oltre che a creare un'immagine culturale specifica bella, insomma, si è ispirato insomma anche alla musica hip hop, soprattutto ai Truce Clan, che voglio dire non sono tra i miei gruppi hip hop preferiti, ma evidentemente non ho ascoltato bene i testi, perché i testi di Niccolò Contessa sono veramente molto belli. Andateveli a sentire, qualcosa su YouTube c'è, veramente interessante, anzi molto su YouTube c'è, perché c'è tutto, ha fatto tutto tra quella roba là. Nothing. Oh, Stiamo sempre ascoltando la colonna sonora di La felicità è un sistema complesso. Abbiamo ascoltato il brano In a Manner of Speaking nella versione dei Nouvelle Vague. Il brano In a Manner of Speaking, che vuol dire per così dire, era originariamente dei Taxi du Moon. E Nouvelle Vague, gruppo francese, è un progetto di Marc Colling e Olivier Libeau, che si propone di eseguire cover dei classici new wave, punk e rock anni 80. Dei furbacchioni, quindi. Sì, reinterpretandoli in stile bossa nova. A me piacciono veramente tanto. In particolare posso ricordare Guns of Brixton, fatta in bossa nova, oppure Dance with Me, un pezzo degli anni 80, oppure tanti altri. Insomma, gli XTC hanno fatto. Blistering the Sunday Violent Farm. You showed me how to do exactly what you do, how I fell in love with you. E questi erano i Turtles con il brano You Shoved Me. Ottavia. Sì, allora, come stavo dicendo all'inizio, questa radio è una voce libera dal 1977, vive senza padroni e senza pubblicità, e in questo momento è un po' in affanno e ha bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno per continuare a trasmettere informazione, musica e cultura, che poi niente altro sono che espressioni di amore verso la libertà e la bellezza, raccontate attraverso questi microfoni che sono storici, che devono vivere, perché grazie a questa radio la libertà e la felicità di chi l'ascolta naturalmente è, se non proprio come dire garantita, perlomeno è protetta in questo, in queste, la felicità è un sistema complesso d'altronde. Sì, oggi sono così, sono un po' rompivalle, un po' rompiscato, un po' malinconica, vabbè scusatemi. Non abbiate paura comunque di sottoscrivere alla radio con quello che potete, non è importante quanto donate, ma che voi doniate qualcosa alla radio che ha bisogno di essere sostenuta. Con il conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 5600185, Roma, o con il pulsante sostieni, c'è cioè il tutte quelle cose, la modalità PayPal. Esattamente, quello che volevo dire io. Quello lo volevi dire. Allora, ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. L'indirizzo di posta elettronica è traccedicinema@ondarossa.info. E Leonora Danco, la pagina Facebook è Tracce di Cinema, semplicemente. Leonora Danco ci saluta anticipando il brano che va a chiudere. Allora, sono i miei favoriti. Oh. La canzone ve la dico in italiano perché non so l'inglese. Lei è come un arcobaleno. Cantano i Rolling Stones. A giovedì prossimo, ciao. Ciao, Flash, certe volte la pizzetta alle 2 la digerisco.